A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. È l'uomo dell'archivio Z, la cassaforte delle migliaia di pratiche al centro dell'inchiesta sui dossier illegali della Telecom. Più di 4.000 report su uomini di finanza, politici, imprenditori, più di 100 su altrettante società. Con la sua policy di stinto era il principale fornitore della security Telecom Pirelli dell'era Tavaroli. E per quell'archivio di dossier ora è tra i condannati in primo grado nel processo in corte d'assise a Milano. 5 anni e 6 mesi per l'investigatore privato Emanuele Cipriani, 2 anni in più per l'ex funzionario del SISDE Marco Bernardini. Alla fine 7 saranno le condanne, 5 le prescrizioni, mentre era già uscito dal processo per aver patteggiato il protagonista Giuliano Tavaroli. Una sentenza questa che stabilisce anche forti risarcimenti per le vittime dei dossier, 12 milioni per il governo e i vari ministeri e 10 milioni come provvisionale alla stessa società Telecom che insieme alla Pirelli aveva già patteggiato le accuse per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa. Un grande scandalo quello dei dossier Telecom che portò nel 2006 dopo gli arresti in tutta fretta pure ad una legge oggi con tanti vizi. Una vicenda giudiziaria che è tutt'altro che conclusa nei suoi vari rivoli, ma che registra ora una prima sentenza e da cui partiamo con uno degli imputati principali, Emanuele Cipriani. Mi ha trovato sicuramente meravigliato, se non addirittura stupito, in quanto ci sono degli aspetti per ora nel dispositivo che lasciano perplesso il sottoscritto, ma anche il mio collegio di difesa. È una batosta anche perché in un dibattimento di primo grado che è durato oltre 2 anni, ho sempre risposto e documentato ogni mia risposta. Una vicenda che per lei, da un punto di vista dibattimentale, stava cominciando bene perché avevate avuto la assoluzione rispetto all'accusa di appropriazione indebita. Infatti sono stato assolto dall'infame reato dell'appropriazione indebita per il quale partì tutto questa indagine. La questione dei risarcimenti è un capitolo importante di questa vicenda e di questa sentenza. Vengono stabiliti i risarcimenti per una serie di vittime di questa operazione di dossieraggio. Poi i risarcimenti soprattutto significativo per la società della Telecom. Immagino le crei anche delle difficoltà economiche. Certamente, quelli che vengono chiamati i dossier, che poi per me al tempo e ho sempre rimarcato questa espressione, erano incarichi di lavoro nonché pratiche che facevo su espresso ordine e disposizione dei committenti. Tornando ai due macro clienti Pirelli Telecom, non posso essere soddisfatto di questa sentenza perché io sinteticamente ho solo eseguito degli ordini / delle disposizioni, delle richieste di lavoro, in taluni casi sicuramente adottando attività borderline, in altri casi assolutamente tutte regolari. Queste sono situazioni che sono state abbondantemente anche valutate nel corso del dibattimento ed è per questo, anche alla luce della lunga serie di testimoni che si sono presentati, che questa sentenza mi lascia molto perplesso, al di là delle motivazioni che leggeremo. Per quanto riguarda i risarcimenti, quelli che sono stati disposti per i singoli sono sicuramente in linea, ribadisco lo stupore per vedere Pirelli e Telecom quali responsabili civili in questo procedimento condannate al risarcimento dei terzi danneggiati e poi vedermi sanzionato nel risarcire Telecom per alcuni milioni di euro, che vorrei capire quale danno possa aver avuto Telecom essendo stata una mia committente. Ovviamente mi riferisco al management precedente. Il risarcimento da parte mia è solo verso Telecom, mentre le due aziende, ripeto, come responsabili civili, unitamente al sottoscritto e ad altri imputati, sono chiamate a risarcire i terzi dichiaratisi. Lei lavorava per entrambe. Io lavoravo per entrambe, non solo per loro. E per loro sviluppavo attività informativa in Italia e nel mondo, finalizzata prevalentemente agli interessi delle due aziende nell'entrare in rapporto con persone o società, ovunque queste fossero, per evitargli situazioni di danno, sia esso morale che materiale, in sede di business. E la vicenda è una vicenda che abbiamo raccontato, scritto, ma che risale ormai anche a un po' di anni fa. 4.287 persone oggetto di pratiche, le dice forse anche di più, 132 società tema appunto di report. Questo almeno è quanto nel processo è stato acclarato. Le dice anche di più? Possono essere anche di più, probabilmente. Hanno tutti delle storie, degli obiettivi, chiamiamola così, molto differenti, e ciascuna anche di queste pratiche ha appunto avuto un iter molto differente l'una dall'altra. Qual era però la filosofia e il modo di procedere? Come funzionava? Ovviamente rispondo per quelle che sono le pratiche riferite al sottoscritto, sono tutti assolutamente circoscritti in un archivio. Il famoso archivio Z, migliaia di pratiche che restano tuttora sotto sequestro e non sono state distrutte perché così ha stabilito la Corte, che rappresentano corpo di reato. Non esistono copie, giusto? No, assolutamente no. E rispetto a queste pratiche, ecco, lei oggi come si pone? Queste pratiche tuttora sotto sequestro, per le quali io ho risposto a qualsiasi domanda, e nessuno, dico nessuno, mi ha mai smentito su quello che avevo scritto o dichiarato quando sono stato interrogato. Cioè, quindi quello che era oggetto delle pratiche era vero? Per quanto mi riguarda, ritengo di sì. Le pratiche venivano richieste e commissionate in relazione ai tramiti commerciali che le due aziende potevano avere in sede di affari che svolgevano, di commesse che percepivano o di rapporti che il management dell'azienda, dal più alto in grado alla cosiddetta prima linea dei dirigenti, entrassero in contatto con persone sempre per motivi di affari, e pertanto chiedevano un vaglio di chi dovevano incontrare, oppure un vaglio e un'analisi delle società con cui dovevano stringere degli affari, soprattutto all'estero. La sua società, la Polis Distinto, come avveniva anche con altri fornitori, però lei era tra quelli a cui Ravaroli si rivolgeva più spesso, preparava queste pratiche dove metteva insieme tutte queste informazioni, e poi, diciamo, il tema del processo è il modo in cui queste informazioni sono state anche acquisite. La caratteristica è che arrivava la fotocopia di un biglietto da visita come un modulo interno aziendale, dove richiedevano le informazioni sul nominativo, e queste partivano per la formazione della pratica. Come ho detto e come ho sempre affermato anche davanti all'ufficio del pubblico ministero, non ho mai negato che ci sono pratiche che possono avere dei risvolti non regolari. Vuol dire che avevate la consapevolezza un po' che erano operazioni borderline. C'era, ed è ovvia per chi esercita questa attività, l'ha esercitata per quasi 18 anni. Però tanta era la consapevolezza in taluni casi che certe informazioni fossero irregolari, parzialmente irregolari, altre lo erano totalmente lecite. Di conseguenza, qualche volta sono state sviluppate degli accertamenti cosiddetti riservati su delle persone, ma a livello solo informativo, e venivano a completamento di quello che erano altri accertamenti assolutamente regolari e consoni sulla persona, come sulla società. Vedi bilanci, vedi gli amministratori e quanto. Chi erano i committenti? Erano le direzioni security, secondo procedura, delle due aziende, come ripeto anche di altre aziende, e spesso erano anche il management delle aziende per esigenze personali, che venivano poi dirottate sui fornitori abituali delle aziende. Io ero uno dei fornitori, non ero il solo fornitore per queste cose di security. È vero, ero sicuramente tra i fornitori più chiamati. Mi permetto di riportare un'affermazione di un paio di testi, anche tra i più apprezzati, in quanto ero a capo di un'azienda che sicuramente riusciva nelle 24-48 ore a rispondere a qualsiasi esigenza delle due aziende in Italia come all'estero. Esempio, le scorte all'estero dei vari manager, le organizzazioni all'estero di convegni, anche in zone molto calde, oggi tuttora teatro di guerra. Ecco uno dei motivi per cui un'azienda veniva chiamata magari più frequentemente di altre proprio per essere molto organizzata nella security come nell'intelligence. I rapporti tra lei, Tavaroli e Marco Mancini, altro nome di questo processo, si sa sono rapporti che risalgono indietro nel tempo. Esistono, ci sono ancora dei rapporti tra di voi? I rapporti con le persone che lei ha appena citato risalgono all'infanzia e all'adolescenza. Questa situazione processuale che mi ha visto coinvolto e in parte anche gli altri hanno sicuramente, per quanto mi riguarda, creato grosso dolore e dispiacere, perché poi gli eventi hanno fatto sì che ognuno ha preso, diciamo, strade diverse, scelte diverse processuali. Cioè, quindi non vi sentite neanche più indipendentemente dalle vicende del processo? Passato diverso tempo. Ecco Cipriani, questa era una storia che ruotava molto intorno ai rapporti che c'erano tra questi tre protagonisti, chiamiamola così, lei, Giuliano Tavaroli e Marco Mancini. È partita così anche la vostra collaborazione? Il termine collaborazione, mi permetto di dire, è improprio. Sicuramente il fatto che ci fosse questa vecchia e consolidata amicizia tra queste tre persone ha sicuramente alimentato più interessi e molta invidia anche da operatori interni di questo settore, anche ad alto livello. E questo può aver contribuito all'inizio a fomentare forse tutta l'indagine, che ci ricordiamo era partita pensando che ci fossero decine di migliaia di telefoni sotto controllo. Abbiamo letto tutti per dei mesi che c'erano centri ascolto clandestini e quant'altro. Non c'è mai stato un telefono sotto controllo, c'era solo un'attività informativa che in certi casi, non sempre, troppo aggressiva, che, come ho detto e ho dichiarato e ho sempre dichiarato anche prima delle misure cautelari, per quanto mi riguarda, al pubblico ministero, ho sempre dichiarato prima quelle che potevano essere le attività che vogliamo sintetizzare borderline da quelle che sono assolutamente lecite e regolari. Sì, ma a quanto pare così poi non è stato, ed è per quello che vogliamo leggere determinate motivazioni nella sentenza. A ciascuno il suo. ...4.287 dossier sulle persone, 132 report su altrettante società. Quando lo scandalo Telecom venne fuori nelle sue dimensioni dopo gli arresti del 2006, scattò contemporaneamente un generale allarme rosso. Si parlò di intercettazioni abusive, di centrali di ascolto, di una superamanda in grado di carpire ogni segreto grazie ad una rete di 007 che ruotava soprattutto intorno ai nomi di tre amici: Giuliano Tavaroli, l'ex carabiniere della squadra del generale Dalla Chiesa, già consulente delle procure e poi potente capo delle security Telecom e Pirelli, Marco Mancini, già numero 3 del servizio segreto militare, ora condannato in primo grado anche per la vicenda del sequestro dell'ex imam Abu Omar, e poi Emanuele Cipriani, l'investigatore privato che con la sua agenzia fiorentina Polis Distinto faceva arrivare in poche ore i fascicoli con tutte le informazioni richieste. Sui nomi noti della finanza, da Scaroni a Bernabé, da Cesare Geronzi a Vittorio Colao, a Carlo De Benedetti, su una serie di politici, su protagonisti del calcio come Bobo Vieri e su una sfilza ancora di società. Ogni nome, una pratica e una sigla, tutto conservato nel cosiddetto archivio Z, tuttora nelle mani degli investigatori e mai distrutto, perché per la Corte quelle pratiche sono corpo di reato. Fu allora che scattò l'allarme rosso, quando la notizia della scoperta di questo archivio fece pensare ad intercettazioni illegali, invece mai trovate. Nel giro di poche ore il governo dell'epoca mise a punto una legge, da molti considerata troppo frettolosa. 7 anni dopo l'inizio di quelle indagini, ora è arrivata la prima sentenza di primo grado. 7 condanne e forti risarcimenti per le vittime dei dossier come per le istituzioni, ma 10 milioni come provvisionale vanno anche alla stessa Telecom. Ma io lavoravo anche per Pirelli, perché questo diverso trattamento, ha obiettato nella prima parte di A ciascuno il suo Emanuele Cipriani, uno dei protagonisti di questa storia, mentre annuncia i ricorsi in appello, indica quelle che a suo dire sono le contraddizioni di questo verdetto che lo condanna a 5 anni e 6 mesi. E da qui ripartiamo, entrando all'interno del mondo della security, fatto di report, di 007 di vario genere, di notizie talvolta riservate, talvolta aperte, notizie a volte raccolte in modo aggressivo, come ha raccontato Cipriani, ammettendo di aver talvolta lavorato in modo borderline. Ma Telecom e Pirelli non erano i suoi unici committenti, c'era anche un altro lungo elenco di grosse società del mondo della moda, come dei settori più diversi. E allora oggi viene da chiedersi: il modo di lavorare era lo stesso? Da qui ripartiamo con Cipriani, già titolare dell'agenzia Polis Distinto. La sua Polis Distinto, e lei, Emanuele Cipriani, non lavorava soltanto per Telecom, per Pirelli e per Giuliano Tavaroli, ma ricordo che lei lavorava anche per molte altre società, molte delle quali anche molto importanti, anche in settori diversi, dalla moda, settori molto differenti. Questo vuol dire che il suo modo di lavorare era lo stesso per tutte le realtà, oppure in qualche modo dipendeva anche dalle richieste? Sì, le confermo, il portafoglio clienti sicuramente molto importante e molto variegato. Le attività non ce n'è una uguale all'altra, per quanto possa sembrare anomalo. Ogni attività di intelligence o di security, a seconda dei casi, viene modulata in relazione all'obiettivo, all'urgenza e alle motivazioni per cui il committente ti sollecita una determinata ricerca. Non escludo che in qualche altro caso ci possano essere state attività aggressive, ma ripeto, non l'ho escluso, visti gli anni trascorsi non lo ricordo. Vorrei precisare anche una cosa, che indipendentemente da quello che si è letto recentemente sui giornali post sentenza, questo processo sicuramente non ha escluso, direi che non ha a casomai, nello sviluppo degli accertamenti fatti sulle pratiche, non ha escluso, anzi, come stavo dicendo, ha confermato che determinate attività sono state fatte al di là delle modalità. Ma non mi trovo d'accordo con determinate testate che il giorno dopo la sentenza si sono, diciamo, passi un termine un po' brutto, sciacquate la bocca dicendo che le attività erano bufale o non veritiere. Beh, direi che casomai questo è esattamente il contrario. Tutto qua, sì, che le attività... Allora, che le attività ci fossero è un dato oggettivo, sono lì, c'è stata, esatto, fatta anche una legge in fretta e furia dopo che scoppiò lo scandalo di dossier Telecom, una legge impropria, inappropriata, tant'è vero che non si è riusciti neanche a distruggere questi report perché sono stati definiti corpi di reato. Il processo, l'iter processuale è stato fino adesso molto accidentato e ha avuto varie fasi con varie letture. Quello che in questo momento possiamo dire è quello che un dispositivo di primo grado stabilisce, e vedremo, come dire, nei passaggi successivi, a cominciare da quelli delle motivazioni stesse, che cosa saranno detto, e nei rivoli degli altri procedimenti giudiziari che sono tuttora pendenti, a cominciare da quello per la vicenda della ricettazione della DVD del Brasile, per cui è sotto accusa anche l'ex numero uno della Telecom, Marco Tronchetti Provera. Avviandoci verso la conclusione, vorrei chiederle, dopo questo che fu all'epoca un evento di grandissimo clamore, ci sono stati anche una serie di altre piccole storie di cronaca che sono venute da varie parti d'Italia, che però raccontavano anche di l'accesso abusivo a volte a dati di un tribunale, nulla di confrontabile con quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Però quello che vorrei chiederle è questo modo, anche in un certo senso, di acquisire informazioni è forse una realtà più diffusa di quanto non si creda. È una realtà che è sempre esistita, poi ripeto, il limite di quando si sconfina per avere una determinata informazione, questo dipende sempre dall'origine della richiesta, delle motivazioni della richiesta. Certo è, l'attività informativa c'è sempre stata, ritengo che ci sarà sempre, bisogna essere molto molto attenti nel valutare quando questa è oltre un determinato limite o rientra nei limiti previsti dalla legge che conosciamo. Che cosa fa adesso Emanuele Cipriani? La polis di istinto non esiste no, più. No, la società non esiste più. Io sono fuori da questo settore da subito, da quando sono accaduti i primi fatti, esattamente nel mio caso di specifico dal settembre del 2004 ho cessato ogni attività. Mi occupo nel settore dell'alimentazione, faccio l'imprenditore in quel settore lì, il settore alimentare. A ciascuno il suo, termina qui. Vi ricordo che nell'archivio della rubrica che ritrovate sul sito di Radio 24, il sito nuovo, potete riascoltare anche le interviste fatte in questi anni dall'inizio dello scandalo dei dossier Telecom a quasi tutti i protagonisti di questa enorme vicenda giudiziaria che abbiamo seguito molto fin dall'inizio. Da Giuliano Tavaroli, il capo della security Telecom e Pirelli dell'epoca, a Fabio Ghioni del Tiger Team, da Andrea Pompili allo stesso Cipriani, fino alla vicenda tuttora nebulosa della morte di Adamo Bove. Una vicenda questa dei dossier Telecom di cui si tornerà ancora a parlare, ma voi fatemi sapere allora cosa ne pensate sul blog Storiacce o sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra, l'hashtag a ciascuno il suo. Ciao a tutti, al prossimo weekend.